YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati anche per questo sabato a Radio Tube, un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare, senti cosa dico, l'imperdibile, l'imperdibilissimo, anche il perdibile della settimana tra TV, web TV e social TV. Ho detto l'imperdibile anche se PG Battista ha detto che non si può più dire l'imperdibile. Ma no, mi piace la cosa dire l'imperdibile. La cosa drammatica di questa trasmissione è che a te piace molto dire l'imperdibile, sì. E a me piace dire narrazione, che è l'altra parola. Mi ha vietato o suggerito di utilizzare il meno possibile. Quindi praticamente, eppure l'abbiamo anche avuto PG. Ma guarda, metteremo dei beep, non lo so, cercheremo, no, non posso cercare di non dirlo, no, va bene. L'imperdibile. Troveremo un sinonimo. Daniele, diamo sì, i nostri... giusto, dai, ce lo chiede l'Europa. Mentre si stanno insediando i nostri europarlamentari, l'Europa ci chiede i nostri account. Ce li chiede, dunque, @MartaCagnola, @DiBellasio, oppure si può usare il mitico hashtag RadioTube. Eccoci. Parliamo di politica. Dai, sì, perché insomma oggi è una puntata un po' particolare, perché parliamo di politica però in un modo un po' nuovo, e poi parliamo di un tema un po' strano, no? Per i social. Parliamo di un paio di temi. Allora, un tema che sarà di stretta attualità, dobbiamo anticiparlo. Parleremo di mondiali, per forza. Ah, parliamo di mondiali? Io pensavo di moda. E parliamo anche di moda. Un politico molto di moda da tempo. E molto di moda e anche molto di Modena. Mi devi passare questa battuta. La trasmissione. Adesso io vorrei salutare. Allora, le trasmissioni sono sospese. È stato bello. È come la Rai durante Italia Fluminense. Sì, il collegamento. Alla 47ª puntata. Io me ne vado. No, però c'entra Modena. Dunque, sì. E stiamo parlando di Giovanardi. Sì. Che adesso è diventato Giovanardi o Giovanardi. No, allora, l'ospite che abbiamo al telefono, sì. Elisa Calessi, notista politica di Libero, l'ha chiamata, lo chiama Giovanardi, tipo Giovanardi. Come Giovanotti. Io preferisco staccato Vanardi. Sicuramente non Giovanni, ormai dobbiamo trovargli un nickname, ma tu hai già anticipato chi abbiamo al telefono, quindi non possiamo che salutarla. Buonasera Elisa Calessi. Buonasera a voi. Elisa, ci hai fatto impazzire perché sui social, questa settimana su Twitter in particolare, cosa è successo? Beh, intanto puntate precedenti, era stato ospite insieme a Fedez, notissimo rapper dalla Innocenzi. E Fedez è un rapper che difendeva la liberalizzazione delle droghe leggere. Sappiamo qual è la posizione di Giovanardi e cosa ha combinato Giovanardi. Vabbè, Elisa, non te lo faccio raccontare, lo faccio direttamente vedere agli ascoltatori. Eccolo qua. Perfetto. Se dovessi poi rispondere non ai rapper, ma ai ragazzi a cui si rivolgono i rapper, utilizzerei il testo in rima che mi è arrivato da uno che ha visto la trasmissione e che faccio mio. E dice: ragazzo che mi ascolti, non ti far fregare, la droga non fa bene, la droga ti fa male. C'è il rapper che si chiama Fede con la Z, con le sue canzoni, si sente un po' profeta. Dice che la canna si può legalizzare, la Maria ti fa bene. Non si muore col fumare. Cioè, mi piace perché la declama come se fosse la poesia della scuola. Cioè, non, però nello stesso tempo un po' la frizione sul rap gli scappa, eh? Bah, non lo so. È sospettoso. Elisa. Io, guarda, sarà la 20ª volta che lo sento, 2 volte che lo sento rido. Cioè, perché secondo me è fenomenale. Ma guarda, è successo che è stata tutta una sorpresa sta faccenda. Nel senso che noi... Anzi, devo dire, i miei due colleghi in particolare, Salvatore Dama e Paolo Emilio Russo, con cui ci siamo inventati questa rubrica su Libero, Selfie TV, loro sono appassionati di hip hop. Allora, vedendo la puntata, come dicevi, ricordavi tu, di anno 1, visto insomma il duetto tra Fedez e Giovanardi, gli è venuto in mente di proporre a Giovanardi un rap. E siamo andati insomma da lui e Giovanardi ha accettato. Ma la cosa divertente è stato che intanto il successo incredibile che ha avuto questo rap di Giovanardi nel mondo dei rapper, perché diciamo adesso siamo arrivati addirittura a 100.000 visualizzazioni, ma il traino grosso è avvenuto proprio nel mondo, in questo sottobosco di pop italiano, che è impazzito, cioè letteralmente impazzito per questo rap. Addirittura c'è stato uno che ha lanciato un concorso, fate un beat per Giovanardi, che è in corso, quindi adesso vedremo nelle prossime settimane cosa succede. Cioè arriverà a fare un LP praticamente. Ma non solo, ieri si è aggiunto un altro capitolo a questo episodio, nel senso che ci chiama ieri sera Giovanardi perché era uscito un articolo su Famiglia Cristiana in cui lo prendevano un po' in giro inventando anche lì un rap contro Giovanardi. Allora lui ci chiama ieri sera dicendo: sentite, io quasi quasi avrei fatto un rap contro Famiglia Cristiana. No vabbè, creato un mostro Elisa. Sì sì, e quindi ci ha mandato queste rime fatti da lui, che noi abbiamo pubblicato su Libero. Adesso i prossimi giorni vorremmo andare da lui a registrarlo. Continuiamo. Insomma, abbiamo creato un rap. Beh, io vorrei subito anche leggere il tweet di Fedez, che ha così ha commentato: Giovanardi m'ha fatto il dissing. Il dissing è quando i rapper litigano tra loro, no? Sono in beef col Parlamento, dai, sei proprio il king del moralismo, Giova. Sì, sì. Cioè, Fedez, ma guarda, io l'ha di fatto abilitato, eh? Sì, sì, ma infatti è stato questo tweet di Fedez che, come vi dicevo, ha lanciato questo rap nel mondo dei rapper, che poi è stato ripreso da altri. Io adesso non sono un'appassionata, come potrà immaginare Daniele, di hip hop, ma mi dicono che è stato poi ripreso, rilanciato, insomma, sono intervenuti altri personaggi che io non mi avventuro nei nomi perché non mi ricordo già più, però che pare che siano, cioè, dei nomi, insomma, dell'hip hop italiano, e quindi da lì si è scatenato il tormentone. Quando si parla di social network si dice sempre, no, che i politici sono più bravi a usarli, generalmente sono anche quelli anagraficamente più giovani, che hanno più dimestichezza con la tecnologia. Invece in questo caso, cioè, devo dire, chi l'avrebbe detto che Giovanardi sarebbe diventato un mito di Twitter? Radio Tube. Rieccoci insieme dopo le informazioni sul traffico, che Daniele Bellasio adora, anche perché comincia già a immaginarsi, sì, moto, in moto, no? Sì, chi ci ha seguito la scorsa non settimana. Non mi hanno ancora chiamato per il foglio rosa. No, ma meno male, no, ma avvertimi. Voglio sapere le strade che fai, voglio sapere tutto. Io vado pianissimo, perché chi ci avesse tutte le regole ascoltato la settimana scorsa o avesse scaricato il podcast. Molto importante, anche quello ce lo chiedo. Ce lo chiede l'Europa. Sa che Daniele Bellasio sta prendendo la patente per la moto e poi non ce ne sarà più per nessuno. Perché ma c'è la crisi mezz'età su Twitter, impazza, su eccetera, Facebook. Eccetera. Pure, andiamo avanti. Ma abbiamo con noi Elisa Calessi, il cui account Twitter è chiocciola Elisa Calessi. Anche lei ha chiocciola nome e cognome, Daniele? Sì, ecco. Sì, non sono particolarmente originale. No, no, ma anch'io sono per il chiocciola nome e cognome. Poi ci sono filosofie. Sono filosofie. Non abbiamo ancora letto la sua bio su Twitter. Leggiamola. Che è: sono nata a Ferrara, vivo a Roma, cronista parlamentare di Libero, mi piacciono i fiumi, Truffaut, Bergman, i romanzi russi e andare in bicicletta. L'hip hop non c'è. L'hip hop no. Non è stato inserito. Decisamente no. Non vedo tracce di pop, anche se adesso abbiamo parlato dell'hip hop, del rap di Giovanardi. Questo è il Giovanardi remix. Ragazzo che mi ascolti, non ti far fregare. La droga non fa bene, la droga ti fa male. C'è il rapper che si chiama Fede con la Z, con le sue canzoni, si sente un po' profeta. Io guardo Peter in regia per capire cosa pensa di questo remix, di questo rap. Beh, è una bella sfida fare il remix. È divertente, divertente. Tutti i mezzi. Ma perché se l'è presa molto Famiglia Cristiana? Elisa, cosa è successo? Questa cosa. Ma no, guarda, ma sono stati carini, devo dire, perché hanno ripreso la cosa. Però, insomma, siccome il contenuto era la droga, così, il proibizionismo, eccetera, hanno risposto con una rima, insomma, così, prendendo un po' in giro Giovanardi, ma niente di che. Però evidentemente Giovanardi ha voluto rispondere, insomma. Senti, ma come li usano questi politici, i social network? Tu prima dicevi: ah, spesso si pensa che solo sotto, diciamo, i 40 anni, sì, si usino i social, sì, network bene. Invece, come secondo te, chi ti diverte? Come ci lavori tu? Perché tu, sì, sei molto, allora, presente. Intanto, ricordo che questo remix è sempre di Salvatore Dama, che è bravissimo, proprio geniale. Stiamo scoprendo una sua talento. Diciamo che segue per Libero il centrodestra, giusto? Sì, Berlusconi, eccetera, però stiamo scoprendo che ha un talento anche nel fare video e queste operazioni così un po'. Cioè, la redazione politica di Libero, Paolo Emilio Russo, Salvatore Dama, Elisa Calessi si è data all'hip hop lanciando Giovanardi. Avete degli... Non ho capito, tu stai prendendo la patente per la moto? Allora sì, non posso, no, ma io infatti non lo dico mica come. Ecco. Non giudico, anzi, voglio farne parte. Avete altri obiettivi? Volete convertire i social altri politici, appunto? Ah, di tutto, no, ci stiamo divertendo. La verità è che abbiamo voglia di diversificare un po' le cose e poi anche, come dire, partendo dal fatto che, come tu sai, ormai insomma anche i giornali guardano molto di più al web, ai siti, insomma la carta stampata rimarrà, però chissà come, in che forma, e quindi abbiamo accettato insomma questo dato di fatto cercando di inventarci qualcosa. Ma tornando alla tua domanda, ecco, che non voglio evadere, e allora, chi sono i politici più bravi sui social? Allora, parto da un nome scontato, Matteo Renzi. Ovviamente sì, lui è bravissimo perché usa i social come vanno usati, cioè secondo me giornalisticamente, cioè da un punto di vista del rapporto tra politica e giornalismo, il social è utile perché salta la mediazione, cioè tu non hai più bisogno del giornalista, dell'agenzia di stampa, parli direttamente con i tuoi follower, con i tuoi sostenitori, con quelli che ti seguono, no? E Matteo Renzi lo usa esattamente così. E anche con i giornalisti parli così. Ci sono anche quelli che lo usano, e però secondo me sbagliano, come se fosse una specie di comunicato stampa, no? Però Elisa, quando ha scritto arrivo, durante le consultazioni al Quirinale, parlava sicuramente ai suoi follower, però era anche un modo diverso di annunciare ai giornalisti che, insomma, a una conclusione si arrivava. Sì, sì, sì, questo è vero, però è un modo, come dire, per mettersi su un altro piano, anche certo. Lì era un modo per rompere quella certo. ritualità, per dire io sono diverso, capito? Ancora certo. una volta io sono, non potete ingabbiarmi nell'immagine dei politici che avete incontrato fin qui, cioè è lui che usa, capito, i media, è lui che usa sì. i social, non il contrario, è che lui li usa veramente tutti. Cioè, per esempio, su Twitter adesso è un po' di ormai un mesetto, due, soprattutto da quando è Palazzo Chigi, che usa molto le foto, Instagram, queste cose qui, no? Cioè non usa semplicemente i 140 caratteri. Oppure, per esempio, si è inventata questa cosa di Matteo Risponde, sì. no? Dove usa Twitter, però legato anche al video, e via dicendo. Poi un altro bravo, secondo me, è Salvini. Sì. Anche lui è molto presente su Twitter. Addirittura la usa in onda, la scorsa settimana abbiamo sentito che era stato rimproverato. Io mi sono schierato contro proprio durante, cioè solo nelle pause si possono usare i social. Elisa, tu li usi? Tu che vai tanto in TV? Sì, su quello un po' hai ragione, cioè non è tanto simpatico, che uno non mi piace tanto quando a Ballarò vedo questi qui che smanettano sull'iPad, non è tanto simpatico, su quello hai ragione. Cioè, però dicevi lui è bravo. Però lui è bravo perché lo usa, cioè lo usa lui, perché l'altra caratteristica dei politici che non usano bene certo. i social è che, per esempio, molti lo fanno usare da altri, hanno dei giornalisti, dei collaboratori, però si nota quando è così, perché non è spontaneo, perché insomma deve essere una cosa abbastanza personale, quindi o trovi uno che proprio è la tua ombra, o altrimenti... Sai chi non mi aspettavo ma invece sta crescendo sui social? Gianfranco Fini. Che non mi aspettavo minimamente sì. fosse dici ma avevo visto qualche tweet ma... No, io non ancora devo aggiungere l'account alla mia timeline di Twitter e guardare di un po' cosa Salvini, cosa... Cioè, Salvini mi lui no Salvini no di Fini voglio adesso monitorerò un po' più un Facebook. Po' Fini più Facebook lo farò. Allora vorrei leggervi gli ultimi tweet su Giovanardi e poi stuzzicarvi su un altro video che si è diffuso questa settimana in rete. Vabbè, Luca Sofri, il rap di Giovanardi incentiva l'uso della droga, io aprirei un fascicolo. Non no, leggerlo questo... ok Giovanardi. Non leggerlo, ok, raccogliete più viveri che potete e poi tutti nel bunker. Suzuki Maruti, guardo il video del rap di Giovanardi e vedo un personaggio ridicolo, incapace di rappare, che dice cose orribili, puro hip hop italiano. pure i pop italiani. Questa non, la cattiveria non era contro Giovanardi. Non ho avuto la Baruti comunque, cioè, un'epoca. Vabbè, no, vabbè, oddio mio, vabbè. andiamo avanti. Decisamente. Liberiamoci. No, non voltiamo pagina. Questo video in realtà, insomma, ve lo dobbiamo spiegare perché ripreso a Bergamo, e già se diciamo Bergamo sappiamo di cosa stiamo parlando, dopo l'elezione del nuovo sindaco Giorgio Gori. Allora, bella ciao, io adesso non so come dire... non era proprio in tono Giorgio. No, sembrava un po', cioè, così. Sembrava un po' catapultato in un... in una festa dell'unità, catapultato. Ecco, ecco, io credo che questo sia un po' uno specchio, una metafora di questo nuovo... di questo nuovo partito, queste anime che si fondono. Sì, così. Il video è piuttosto così, l'effetto è straniante. Giorgio Gori, tra l'altro, vabbè, ne parleremo ancora, ma insomma questa settimana la cosa forse più viral di tutte è stato l'abbraccio con Cristina Parodi vestita, esatto, vestita come Michelle Obama. È come la moglie di Wiener. Eh? Ah, certo, certo. Cioè, beh, un vestito che poi, tra l'altro, tutte poi abbiamo cercato su ASOS, esaurito, e l'ho cercato anche su eBay, ma non ho ancora trovato. Se qualcuno non ho ancora può mandare a Marta Cagnola, se non vuoi ho lasciare a Vimercate, fermo posto a Vimercate. No, non ho ancora trovato la mia taglia, ma adesso lo troverò. Giuro, guarda, lo trovo e vengo in radio col vestito di Michelle Obama e Cristina Parodi. E andiamo Parodi. In streaming, e come andiamo... ha chiesto Fitto, andiamo in streaming per far vedere. Io vestita da tovaglia uguale, giuro che lo faccio, investo qualsiasi cifra su eBay. Beh, insomma, Elisa, si stanno verificando così dei momenti, no? Un po' distonici, così dobbiamo abituarci a molte cose. Ma sì, guarda, questa cosa della foto della Parodi, devo dire che sì, sono d'accordo con te, è stata proprio la foto virale della settimana. Io devo dirti che la prima volta che l'ho vista, cioè ingenuamente ho detto ma no, ma non è possibile che l'abbia fatta apposta, invece è stata smentita, l'ha fatta apposta. Però è bellissimo. Forse l'ho trovata, sapeva di vincere, per esempio. Beh, era ma, molto sicura. Lei ha detto proprio... che avrebbe portato bene, quindi esatto, se ha avuto una funzione apotropaica va bene. Io vi saluterei, sì. Saluterei Elisa. No, te non ti saluto, rimani con me ancora mezz'ora, non te ne andare, non prendere la porta dello studio. Cosa faccio? Non servo. Beh no, mi servi per parlare. No, ma secondo me ti ne sembro sai. Un fashion come secondo si me, chiama? Secondo me mi puoi dare delle soddisfazioni. Io vorrei mostrarvi alla radio questo video del mio nuovo mito, che è un deputato, una deputata SEL, Serena Pellegrino. Si dice, cara. No, però di SEL possono essere deputati. Ah, scusa, no, è vero, di SEL, di vero. SEL possono essere deputati. Vedi. Serena Pellegrino, che è ufficialmente il mio nuovo mito, io vorrei stringere la mano perché ha detto quello che vorremmo dire tutti. Serena Pellegrino. L'Italia è quella che ha maggiori procedure di infrazione in Europa per quello che riguarda il tema ambientale. I richiami vivi. Chiedo, Presidente, un po' di silenzio. Io penso che colleghi, sia indispensabile. Sì, sì, sì, un attimo. Colleghi, per favore, da stamattina che è ormai un'ora che faccio lo stesso... Cazzaro. Vi prego di abbassare il tono della è voce. È il mio mito, capito? È cazzaro. Ma è tipo per Dinci Bacco. Ma è aveva come ragione. Di Berlusconi. Aveva ragione. E beh, cazzarola. Aveva ragione. Elisa, succedono spesso, no? La Camera... guarda, cambiano le legislature, Presidente del Consiglio, però sta questo clima di sbacco da classe scolastica indisciplinata, è proprio un classico. Ma al Senato è meglio? No. Il Senato è quello della mortadella, guarda, sono viste di scene di ogni anche il Senato. No, da questo punto di vista diciamo che proprio c'è parità. C'è vivacità. E Serena Pellegrino ha ragione, cazzarola. E fatemi parlare, fatemi lavorare. Ha ragione lei. Hashtag vuoi lanciare? Hashtag cazzarola. Elisa, grazie per essere stata con continuate, noi. Continuate con i selfie. Selfie TV, continuate. Ecco, io ricordo. Segnalateci. Se vogliamo inventarci qualche cosa, anzi, se ci volete dare qualche idea. No, ma io vi mando direttamente Bellasio a fare un rap. Ecco. Questa sarebbe un'idea. Sono lo Zimbello. Oppure stavamo pensando, dimmi. Perché mi dicevano i miei colleghi, che negli Stati Uniti questa cosa di fare i rap gira molto tra i politici, cioè spesso i politici registrano delle rime così, e quindi stavamo pensando di lanciare questa... proporlo a qualcun altro. Ce n'è stato uno. Vedremo. Mitico di Giuliano Ferrara, ricordo. Già, è vero, okay. Come no. Beh, ogni suo video un esploit memorabile. Grazie Elisa per essere stata con grazie. Noi, buona grazie serata. A voi. Radio Tube. Rieccoci insieme con Radio Tube, l'appuntamento di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo della settimana tra TV, web TV, social TV, l'ho ridetto. Sì, Pigi Battista mi sgriderà perché io dico sempre l'imperdibile, ma a me piace l'imperdibile. Allora, per seguire la narrazione di Radio Tube, l'altra dovete... parola esatto, vietata, narrazione. Cancelletto Radio Tube, oppure sì, i nostri account @MartaCagnola, @DiBellasio e soprattutto da lunedì il podcast sul sito splendido di Radio 24, www.radio24.it. Che bravo, sei un bravo conduttore, sì. Sai chi non è stato voltiamo un bravo conduttore questa settimana? Chi non è stato? Tanto lo sanno tutti gli ascoltatori, Paolo Ruffini, perché Paolo lui Ruffini ha presentato la consegna dei David di Donatello, della quale non aveva mai parlato nessuno. Ma esatto, questa... no, non è vero, vabbè, non no, esageriamo. No, ne parlavamo noi appassionati, ecco, esatto, ne parlavamo noi appassionati, invece questa... tu, tutte le colleghe, tutte le solite, esatto, le critiche, quelle acidelle come noi, la parola. Quest'anno invece... grandissimo successo, perché partito proprio dai social, perché è andata in onda prima su Rai Movie, poi è andato in onda in replica su Rai 1, questo show del conduttore Paolo Ruffini. Praticamente cosa ha fatto? È salito sul palco, evidentemente gli hanno detto di cose simpatiche e non è che avesse proprio secondo me dei testi, perché a un certo punto sentiamo addirittura cosa ha detto. Questo è stato il momento topico a, proprio sì, sì, a Sofia Loren. Un grande applauso, una grande emozione, sarà una per gravidanza, ma io piango, che devo fare? Devo dire la verità, signora, lei è... 5 mesi, signora Loren. Signora Loren, è sempre una toppa meravigliosa lei, veramente, se lo lasci dire, è una cosa fantastica, sono felicissimo di averla qua. Beh, che dire, non proprio scicchissimo. E tu non l'avevi ancora sentito, Daniele? No, avevo letto qualche tweet, però, insomma, qualche cosa di difesa. Beh, lì poi ovviamente schieramenti, chi dice perché i radical chic del cinema non hanno voluto accogliere nella loro famiglia. Ma lei come l'ha presa? Lei l'ha presa malissimo, a un certo punto gli ha detto io non capisco il suo dialetto, l'ha trattato super male. Molto americano, sì, molto sì, americano. Sì, no, lei l'ha trattato super male, però devo dire una cosa divertente, sicuramente dei David, è stato il fatto che Paolo Ruffini cosa ha fatto a un certo punto? Ha citato la zanzara. Addirittura. Giuro, io non ci potevo credere, ovviamente l'ho twittato, cioè, dopo un secondo. No, senti qui cosa ha detto a un certo punto Paolo Ruffini. E la distribuzione per un film è molto importante, no? Come funziona? Se tu dovessi spiegarle agli amici che ci seguono a casa. Mi hanno detto di essere breve, funziona che il distributore mette i film al cinema e la gente li va a vedere. Beh, mi sembra veramente il top, come direbbe Cruciani a Parenzo. Grazie molto, davvero Paolo, in bocca al lupo, e grazie a Andrea Occhipinti che mette la prova al cinema e la gente la va a vedere. Beh, vedi, come direbbe Cruciani a Parenzo, e credo che così, tra molti di quelli che seguivano la cerimonia. Mi incuriosisce moltissimo, come fai adesso a voltare pagina? Come faccio adesso a voltare pagina? Ma io sono una maestra del voltare pagina. Come fai a unire? Ma guarda che in realtà Noi adesso dobbiamo parlare di una cosa serissima e importantissima. Serissima e importantissima. Per l'economia italiana, e tu hai svolazzato. Capito, adesso vai. Io coinvolgo subito l'ospite che abbiamo in studio. Posso leggere, declamare la sua bio su Twitter? Perché mica ha una bio da scema come la mia, una bio seria, perché lei è una donna seria. Italian, editor in chief Moda 24, luxury section of the Italian leading financial daily Il Sole 24 Ore, opinions are my own. Capito? In inglese, certo. C'è mica la mia. Ma io ce l'ho anch'io, in Brianzolo. Per metà in mamma mia, come siete va seri. Bene, quindi... L'account è 24 Paola Bottelli. Buonasera Paola Bottelli. Buonasera a tutti voi. Stiamo parlando di eleganza, cioè sì, questa veramente mancanza di eleganza totale ai Davide Donatelli. Okay. No. No, ma tra l'altro Sofia Loren è una signora formalissima, io ho avuto l'opportunità di conoscerla a una cena di Giorgio Armani, scusate, entriamo subito in argomento. Giustamente una signora di 80 anni, molto formale, quindi non solo americana, perché ormai vive da quelle parti, ma una signora di una certa età che non, chiaramente se sentissi chiamare Topa non le faccia tanto piacere. È una questione di tono, ecco, sì. Forse si può dire in certe circostanze a certe persone, in altre circostanze. Io ho detto, secondo me questa era la metafora dell'Italia, gli hanno detto vai sul palco e di cose divertente, sì. Basta. Paola, allora, questa settimana, sì, vabbè, i David trending topic, ma questa settimana, adesso lo so che siamo un po' autoreferenziali, vabbè, qualcuno ci dirà, vabbè, una cosa, sono le 24 ore, ve lo dite da soli, però tu hai fatto una cosa che è andata veramente in cima alle tendenze di Twitter per tutto il giorno questa settimana. È successo mercoledì. Cosa è successo al Sole 24 Ore, Paola? Abbiamo ospitato, come tutti gli anni, il Luxury Summit, un evento in cui invitiamo tutti i protagonisti del mondo della moda e del lusso, quindi imprenditori, i presidenti delle associazioni di categoria delle istituzioni, gli analisti finanziari, i consulenti, e siamo stati trend topic tutto il giorno, dalla mattina alla sera. È stata anche un po' una sorpresa, ma noi avevamo investito tanto comunque su questa Twitter coverage che ci ha dato un grandissimo riscontro. Abbiamo avuto più di 1000 persone qui in sede, suddivise tra la Sala Collina e l'auditorium di Renzo Piano. I dati dello streaming sono andati benissimo, anche lì qualche migliaio di persone che hanno seguito in streaming, perché chi ci segue sta anche da altre parti, anche molto lontane in effetti. E quindi siamo stati molto molto contenti, veramente. Abbiamo avuto il momento top naturalmente quando è arrivato l'Apple Khan, che è una persona che dal punto di vista mediatico batte anche personaggi del mondo della moda come Brunello Cucinelli o Remo Ruffini di Moncler, che ha fatto l'anno scorso la quotazione dell'anno a Piazza Affari, che ha fatto stappare lo champagne a tutti quelli della borsa. Però quando arriva l'Apo va sempre a finire così. Tra l'altro, il top del top è stato che tutti volevano farsi il selfie. Il selfie con ha twittato anche qualcuno dal cortile, c'era un caldo tipo 35 gradi, una canicola devastante, e tutte le signore a farsi il selfie con l'Apo. Tu li usi tanti social network? Sì, cerco, sì. E come va il mondo del fashion, del luxury, della moda sui social network? Non è che ci sia molto scatenamento. Non ancora. Qualcuno sì, ma ancora molto rallentato in questo momento. Quindi a maggior ragione è stato un successo essere 38. Sì, ma figuriamoci. Forse l'inizio. Sì. Speriamo, per noi. C'è un social network del quale parliamo molto poco, anche perché credo che non sia molto nelle corde di Daniele Bellasio, che è Pinterest. Noi siamo anche su Pinterest. Solo perché non sono venuto al pranzo, lo sapevo che l'avresti detto. È tutta detto. La trasmissione, no. Che mi meni. Mi ha dato buco. Cioè, io lo aspettavo a pranzo e non si è presentato. Mi ha invitato a pranzo e non si è presentato. Non è molto signorile questo. Ma non interessa ai telespettatori. Ai radioascoltatori. È imbarazzato perché l'ha combinata. Va bene. Comunque, noi siamo anche su Pinterest. Certo che li seguo su Pinterest. E anche su Instagram, se per quello. E direi che questi forse sono i social network che sono più vicini al mondo della sì, moda. Perché chiaramente nel mondo della moda l'immagine è tutto, sì. e poi c'è anche una sorta di autoreferenzialità, per cui tutto deve essere sempre bello, e per cui è più facile farlo soltanto con le immagini. Quindi vedo l'immagine e dico: bella, stunning, fantastica, ok? Così funziona. Posso togliermi una curiosità tecnica sui contenuti, sì, dell'Luxury Summit? Sì. Allora, noi vorremmo rilanciare una cosa che è successa tanti anni fa, il Festival Bar. Può sembrare una stupidaggine, però l'idea è questa: come si fa dal punto di vista industriale a prendere un brand che è stato un mito diciamo una ventina di anni fa e farlo ritornare un mito allo stesso modo, se non forse di più? Cosa che è successa con Moncler, obiettivamente è andata così. Sì, hanno esattamente così. Come si fa? Noi cerchiamo anche di dare consigli agli altri imprenditori, no? Agli altri manager, a chi comunque un'azienda piccola deve cercare di farla crescere. Focalizzarsi tantissimo sul marchio, non perdere di vista quello che si vuole fare. Quindi loro hanno deciso che, nonostante avessero un monoprodotto, il piumino, sostanzialmente quello, e fossero anche molto stagionali, cosa che gli analisti finanziari vedevano un po' come un incubo quando sono andati in borsa, hanno detto: ma questi qui hanno un prodotto solo, vendono solo in inverno, aiuto. E invece è andata come poi è andata. La focalizzazione sul DNA del marchio, secondo tutti gli imprenditori che intervistiamo, è la cosa fondamentale. Devi scegliere che cosa vuoi fare e non andare e non sbracare tutto attorno. Tu hai twittato come sintesi, tu oppure l'account di Moda, sì, 24, fare poche cose molto molto bene. Sì, molto bene, molto focalizzate. Se faccio le scarpe col tacco molto sexy, devo andare avanti su quella strada e non prenderne altre, anche se chiaramente non è che poi mancano magari altri prodotti in negozio, perché bisogna vendere un, certo, po' tutto, però la comunicazione, che è fondamentale nel settore della moda, è quella. Deve, secondo me, vale quella anche sulla rete, anche per il modo di comunicare sulla rete. Anche secondo me. A proposito, dimmi. Al di là dei social network, vorrei allargare un pochino il discorso alla rete. C'è un fenomeno che riguarda tantissimo la moda, che riguarda la rete, che è quello delle fashion blogger. Vi faccio, aiuto, guardare alla radio un pezzettino di un video, eccolo qua. Hi lovely people, I'm here at home with Matilda. Allora, questa voce di questa ragazza che parla inglese, chiaramente italiana, che parla del suo cane Matilda, è il mito di decine, centinaia, milioni di ragazzine ormai in tutto il mondo, perché viene ripresa da tutti i giornali. Lei è la fashion blogger italiana più nota, ma sicuramente una delle più note del mondo, si chiama Chiara Ferragni. È un mondo che a me allo stesso tempo affascina e fa arrabbiare, quello delle fashion blogger, ma come il giornalismo vede questo mondo, che effettivamente secondo me poi ha molte anime, l'anima del marketing, è un mondo particolare. Diavolo è acqua santa, questo non vuol dire che noi siamo l'acqua santa sempre, perché ovviamente non è così, però è chiaro che sono dei blog di pubblicità. Sostanzialmente quello, quindi la gran parte di queste persone viene pagata, remunerata profumatamente per indossare determinate borse, scarpe, gioielli, occhiali, pantaloni, essere così fotografata, farsi il video che viene diffuso viralmente in giro per il mondo. È una forma di pubblicità come un'altra, quindi posso fare l'affissione stradale, la campagna sulle pagine patinate con le modelle immortalate dai fotografi star, oppure utilizzo le fashion blogger per fare pubblicità ai miei prodotti, quindi non c'entrano niente con noi. Cioè non scelgono nulla di fatto? No, vabbè, scelgono nella misura in cui comunque possono avere una preferenza, preferisco il marchio A rispetto al marchio B, però se il marchio B non mi piace e mi paga, metto anche quelle cose. Ecco. Quindi è proprio cioè è così, mettono eh? La loro capacità di comunicare al servizio di campagne di marketing. Sì, sono dei businessmen, businesswoman questo tipo di persone, e tra l'altro fanno affari anche non indifferenti, eh? YouTube. È come passa il tempo quando ci si diverte, soprattutto quando si hanno degli ospiti come in questa puntata, Paola, con noi Paola Bottelli, troppo Sole 24 buona. Ore. Sai che allora Daniele si lamenta perché abbiamo poche donne ospiti e adesso nessuno. Da questa settimana io basta. Vengo anche sempre se vuoi. Dai Paola, vieni. Ma perché no? Ma sì. Vieni a farci compagnia. Anche perché poi d'ora in poi dovremo parlare moltissimo di mondiali e quindi bello. Qualche giorno fa Paola Bottelli ha twittato: ma non capisco perché non scrivo più di calcio. Quindi noi ti prendiamo in radio a parlare di calcio. Perché io ho iniziato a fare delle cose di calcio stupende, il business del calcio, sono stata la prima in Italia a farlo nel 1980. Prima dei mondiali Italia 90, nessuno si occupava di calcio e business, sport e business in Italia. Quindi anche mi prendevo i bilanci delle società di calcio di Serie A che arrivavano su dei foglietti di carta a quadrotti scritti a mano, perché così era allora nelle società di calcio di Serie A, e facevo la riclassificazione del bilancio, facevo i miei articoli e mi occupavo di sport business in generale. E mi sono bilancio dell'Inter compreso? Sì, con molta obiettività. Sempre obiettività, purtroppo. Due interisti. Se guardassi oggi. Paola, però volevo chiedere le novità anche tecnologiche di Luxury 24, perché ci sono delle cose belle. Sì, ieri abbiamo annunciato la nostra prima app di Moda 24, che parte martedì durante il primo giorno di Pitti a Firenze, che è un grande evento per la moda maschile italiana e anche internazionale. Sono attesi 35.000 buyer. Soprattutto stranieri, per fortuna, perché il mercato domestico è un po' quello che è. Quindi noi lanciamo la nostra prima app con la realtà aumentata. Ne siamo talmente orgogliosi che quando l'ho annunciato proiettando il video al Luxury Summit mercoledì mi sono anche un pochettino commossa, perché mi è sembrato una cosa bellissima essere riusciti a farlo. E quindi vi aspettiamo con i vostri smartphone, scaricate dall'Apple Store la nostra app gratuitamente e vi guardate tutto quello che c'è di contenuto aggiuntivo, che video, meraviglia. Gallery, altri articoli, interviste, c'è un po' di tutto. Quanto mi piacciono queste cose. Vabbè, abbandoniamo la moda, sì, dai, con passiamo mio al calcio, grande dolore, passiamo al calcio, siamo in fase entriamo già nell'ambiente, sentiamo sì. Qua lontano dalla grande mela. Vabbè, è Mischilla, non è che io lo scelgo ogni volta perché è mio vicino di casa, ma perché Maracanã, il nuovo no, Giovanardi no. Non abita. Giovanardi no, pensa un po', il ecco, rapper Giovanardi no. È Mischilla con Maracanã, insomma, sì. Secondo me sarà il tormentone dell'estate. Il clip con 2,7 milioni tante, di views in 10 giorni. Ma tante. È possibile così tante? 2,7 milioni di views in 10 giorni. A un passo, vabbè, insomma, da Suor Cristina. È il video italiano più visto questa settimana su Vivo. Bravo, Emi Schilla, ecco. E Maracanà, siamo pronti? Siamo quasi pronti, perché siamo adesso si gioca, ma non ancora, abbiamo ancora adesso, beh, sta roba sono della ancora notte, le set, non sono ancora le 7 di sera. Va bene. Paola, tu come li aspetti i mondiali? Beh, io i mondiali in Brasile li aspetto da sempre, se si può dire questo, quindi... Un po' è vero, i mondiali sì, in Brasile sono una cosa che si aspetta, bella, da sempre. È un'ottima definizione. Aspetto da sempre, quindi naturalmente cerco di guardarmi tutte le partite possibili e immaginabili. Qui in redazione siamo attrezzati per la partita delle 18, per quella delle 21 dovremmo essere già a casa sperabilmente, ma magari anche no, vediamo. La notte, beh, organizzatissimi, facile, birre sì. nel frigorifero, sì. angurie se fa così continua a far così caldo. E miei favoriti, posso dire? Sì, sì, sì. Sì, sì la sì. Germania. Non io c'è penso la che, non c'è penso la che la Germania. Sì, penso di sì. Ma anche un po' li tifi? Oltre ovviamente all'Italia. Io tifo l'Italia, bah, proprio certo, a livelli però tutti incredibili. Hanno una seconda nazionale. Sì. Io il Belgio, per dire. Non ho ancora deciso, di solito tifo abbastanza le squadre dove giocano gli interisti. Ah beh, chiaro. Chiaro, è inutile chiederlo. Anche perché in nazionale italiana di interisti una solo. Esatto, però, sì, esatto, il povero Ranocchia che sì. poi viene mio sempre preso di mira. Dice sempre, perché hanno convocato Ranocchia e non Nakatomo? E gli ho detto, no, ma Nakatomo non può perché è giapponese, deve giocare un'altra squadra. Ma non guarda che i bambini dicono le cose. Ma i bambini dicono le cose vere. Vabbè, io lo dico qual è la mia seconda squadra, anche se lo dirò. La Vimercatese. Dopo il primo girone è l'Uruguay, ma dopo però. Beh, l'Uruguay. L'Uruguay, ci piace. L'Uruguay. Io sono stata anche in pellegrinaggio a Montevideo. Ma Paola, l'Italia sono stata dove allo arriva stadio. Invece, secondo te? Non tanto in alto, non io tanti. Penso. No. Naturalmente mi auguro che vinca, però sono un pochettino scettica. Ragazzi, sapete chi stava aspettando sì. il mondiale in Brasile anche lui da sempre? Vabbè, dobbiamo dirlo. La canzone è stata eseguita la prima volta a Radio DJ, ma visto che poi Radio DJ ha parlato. Non si può. No, ma Radio DJ ha parlato. Ha ospitato Giuseppe Crucioli per parlare del Tweet House. Insomma, c'è tutto perché lui fa questa cosa. Siamo una grande cosa, famiglia radiofonica. Sì, per i mondiali. I mondiali affratellano. Mondiali. Tutti. Cosa ha fatto? Che Cozzalone ha cantato la sua nuova canzone che si chiama. Sto ancora ridendo. Tapigno, è veramente divertente. Sarebbe da ascoltare tutta, va bene. Mostriamo un pezzettino del video alla radio. Per gentile concessione. Ehi, a te, tifoso razzista, io capisco il tuo punto di vista, che uomo bianco non è come un nero, sotto la doccia ti dico vero, e allora sfuttimi come vuoi tu, e quando tocco palla fammi bubù. Vabbè, non possiamo sapere qual è la cosa che gli chiede. Vabbè, ha a che fare con la banana. L'abbiamo detto virale, viralissima questa banana. Tutti sono fatti il tweet, l'Instagram, tutto, le cose. L'abbiamo tutto, detto tutto. Tante volte. Ma come useranno i social network questi giocatori? Balotelli ha detto che si sposa. Balotelli ha detto che si sposa. Il Papa ha augurato buon mondiale a tutti. Vabbè, che lui non è un calciatore, però insomma è un tifoso. Vabbè, lui che il Papa che twitta buon mondiale a tutti. Ma come stanno in particolare usando i social network gli italiani? Beh, noi ci rivolgiamo a Reputation Manager, che tra l'altro ha lavorato tanto con a bordo campo il nostro Dario Ricci, che noi salutiamo laggiù in Brasile. Insomma, beato. Speriamo di averlo presto. Beato lui. Dario, abbiamo, ciao. Sì, grande Dario. Abbiamo con noi Tecla Notti, buonasera Tecla. Ciao. Eccoti. Tecla, come stanno usando questi giocatori italiani allora in questo primo mondiale social, i social network? Sì, guarda, sicuramente appunto questo è il primo mondiale realmente social, nel senso che quasi tutti i giocatori delle varie nazionali sono online, hanno un profilo Twitter che usano più o meno attivamente, però ci sono sicuramente delle differenze nelle modalità di comunicazione. Ad esempio Balotelli sicuramente sceglie un modo molto personale di comunicare la sua esperienza al mondiale. Abbiamo visto che in questi giorni sta twittando le immagini viaggi dell'arrivo a Rio, quindi postando video, foto con i suoi compagni di squadra. Beh, Tecla, ha postato anche l'anello di fidanzamento, io però non sono riuscita a capire quanti carati. Non so. Ho provato a twittare se qualcuno ci dava una mano. Se qualcuno ci dava una mano. Qualche gioielliere ci dice quanti carati, però proprio è passato inosservato. Io però insisterei perché vorrei sapere, perché non conoscendo la mano di Fanny non si capisce quanto è grande l'anello. Vabbè, queste sono cose da donna comunque, anche a me secondo me è un bell'anello. Sì, Tecla, bell'anello, sì, dai, è originale sicuramente. Tecla, dicevi? Sì, dicevo, sicuramente anche gli italiani stanno twittando tantissimo. Nella fase premondiale abbiamo visto che c'è stata molta attenzione da parte degli italiani, cioè loro proprio esprimono la loro aspettativa rispetto al percorso che farà l'Italia e anche reagiscono a quelle che poi sono state le scelte fatte da Prandelli sui giocatori da portare in Brasile. Tecla, piccola cosa che ho notato, che i calciatori rispetto agli sportivi di altri sport usano i social network molto per le questioni private, pure troppo in certi casi. È assolutamente vero. Mentre per esempio i corridori o i giocatori di basket parlano di più del loro sport, invece c'è questa differenza, forse perché sono più star, non so. Sì, sicuramente c'è un fattore di esibizionismo non indifferente che questi canali hanno amplificato, perché vediamo che appunto loro ormai non hanno più molto pudore nel postare notizie o contenuti che riguardano la loro vita privata, e sia quando si tratta di questioni che riguardano comunque il loro lavoro. Ad esempio abbiamo visto con il caso di Criscito che ha risposto duramente su Twitter a Prandelli rispetto al fatto che non lo aveva convocato. Loro andrebbero comunque gestiti nella loro comunicazione online. Alcuni lo sono perché sono seguiti da uno staff, mentre in altri casi molto meno, la situazione è totalmente fuori controllo, e questo può creare anche dei danni, perché poi comunque online le cose vengono riprese a macchia d'olio e soprattutto restano nel tempo, quindi poi è difficile rincorrere e correggere il tiro. Tecla, grazie per essere stata con noi. Io segnalo l'account Twitter di Tecla Notti, che è Teglantide, molto carino. Poi bellissimo. Tecla, ti chiederò come è nato questo account. Grazie Tecla, buona serata. Ciao, buona serata, ciao. E segnalo anche l'account di Reputation Manager, che è Reputata Juvent, e ci sono un sacco di analisi su come questi mondiali stanno viaggiando attraverso i social. È finito il tempo a nostra disposizione, però io rivoglio Paola Bottelli in studio. Torni Paola. Con piacere. Così parliamo di moda, parliamo di calcio. Noi però torniamo domani. Sai, noi Daniele? Sì, torniamo domani, parliamo di cose bellissime, serie televisive, politica, tutto. Sì, tutto, parliamo tutto. Delle cose che piacciono adesso, di più a te. Adesso popcorn, lì ci prepariamo. Come dico sempre io, frittatona. Sì, frittatona. Rutto libero. Ah, frittatona. Frittatone, rutto libero. Sì, questa è la citazione mia. Sì, ma è un po' caldino per la frittatona. Vabbè, va bene così. Ragazzi, ci troviamo domani alle 15 ancora Forza con Azzurra. Radio Tube, a domani.